tumulto d'idee, m'eccita in seno questa dolce armonia. Forse la sede questa sarà dei fortunati amanti. Ah sì, vincan incanti, e il seduttore canto non soda. Sgombrate il varco, insidiose larve, a passi miei. Sperate forse essermi inciampo? In vano folle idea di piacere in me si desta.